sociali sono questioni d'economy. Questi omini minimizzano rombi di bolidi. Fanno sempre loro porci comodi. Nel nome del padre figli che si fanno invalidi. Senti, sono alibi squallidi. Danno ragione solamente a visi pallidi. Quelli diversi, diversi ed esanimi. Partono plotoni di uomini verso postazioni di uomini aggressori con volti di uomini aggrediscono figli di uomini in un circo massimo di uomini nell'anno domini di uomini subiamo il fascino di uomini come ninfomani di uomini non vengo con te nel deserto, scusami se diserto, ma preferisco ammazzare il tempo, preferisco sparare cazzate, preferisco fare esplodere una moda, preferisco morire d'amore, preferisco caricare la sveglia, preferisco puntare alla roulette, preferisco il fuoco di un obiettivo, preferisco che tu rimanga vivo. Uomini versano il tributo di nostalgie per epoche che mai hanno vissuto. La bandiera e il saluto, o con noi o stai muto. Questo è il terzo millennio, benvenuto. Chiedo aiuto a Newton, Isacco, come cacchio si fa a sopportare fatti di sta gravità anacronistica? La verità che viene a galla, esperto di balistica, misura mi sta balla. E seguimi in questo viaggio tra santi e demoni, che invece sono solo uomini di uomini. Tu che sei forte alla morte sopravvivimi, io sono debole quindi l'anima minami. Caro paese da belle pretese, se chiedimi se ti vedo come friend o come enemy. Ti piace fare la pace, ma allora spiegami sti missili che fischiano nell'aria come un teremi. Non vengo con te nel deserto, scusami se diserto, ma preferisco, preferisco ma...